della democratica, come parte la serata, parlo di Kamala, era tu, non sai di questa. Brucia. Oi, già ci sei allora. Acceso adesso, acceso. Si viene entrata la... Devo dire, a rinfrescarsi, a mari. Oh. Ho dovuto andare a farmi cambiare della roba. Ah, e hai fatto bene. Almeno ti sei sbrigato di qualcosa, va. Cosa vuoi sempre in giro? Siamo bisogno di altri 4 anni. Se no, se riesci tu a risvegliare, se tu tornata a va. Almeno, almeno ti sei di movimento. I polpacchi, già ti fa bene, va. Fatto, accendo, farendosi. Grazie. Quando c'è la vita c'è sempre speranza. La speranza non è per tutti. Cosa vuoi fare? Purtroppo è così. C'è la vita, cosa vuoi pretendere di più? Non sappiamo che siamo di passaggio. Questo sì. Però sempre più tardi. Cosa vuoi fare? Lui ha per carità. Era mai anche freschetto, si va. Ah, ci sta bene. Non c'era quel caldo afoso di prima. Ci sta bene. Sì, ha rinfrescato parecchio. Che cazzo, non è come quel caldo dei giorni scorsi, per carità. Sta carino, cazzo. Io ci riesci a riposare. Come te mai? Va. Oh, yeah. Ebbene, il birichino come sta andando, non so. Guarda, è quello che c'è tu. È l'ultimo che ho preso. Io ti sento benissimo, chiaro, è forte. Allora, va bene. L'accensione non mi piace. Quando la sera diventa niente, quindi spegne il secondo a illuminarsi. So. Sì, lo fa. Lo fa quello lì. Lo fanno. No, non è nulla, l'importante è che sia illumineggia. Come allora che mi fa quell'effetto così, si rimette a posto in tutto, capito? Sì, no, già è così, infatti. Un pochino ci sta per mettersi in moto. Mezzo scuro quando va all'accendi, dopo mezzo secondo, cazzo, si illumina tutto. Arrangiamo gli altri non fanno queste qua. Deve essere da che dipeso da come l'hanno fatto loro. Anche questo sparisce i numeri da 1 a 3, tanto. Anche questo apparecchio spariscono i numeri, capito? Quando abbassa la portata. I quadretti vanno fino al fondo scala e camminano avanti e indietro, però spariscono i numeri. Quando vuole la portante rientra i numeri da 1 a 3. Ma non metti la portante? Da poco le donne. Chissà che... Prova a mettergli a vedere di potenza, a vedere, di un coso, a vedere, che non sia da dargli... No, io non lo so, questo è... Non lo vedo. La potenza lascio così a 4 watt, già va bene, sto va. Sto scendo a 4 watt, poi credo, per lo meno regolato a 4 watt. E per cui a fa bene così. No, ma è difetto, ogni difetto o lo fa dalla fabbrica. Anche il nuovo della 7009 fa quel lavoro, Il nuovo, anche quello fa quel difetto. Mentre il vecchio, il 7009 è normale, non sparisce quella linea dei numeri. No, mi sembra strano che spariscono i numeri così. Secondo me devono andare a 5 watt, deve andare, per non sparire. Sì, ma le tacchette, i quadretti che va e viene, quando ha fatto la portata, portarsi che risegna quattro facce. Però quando si parlo va a fondo scala e torna indietro, capito? Però spariscono i numeri dalle lineette di sotto, capito? I numeri del coso, della frequenza. I numeri. Allora so. Sotto i quadretti, nelle lancette e i quadretti, diciamo sotto la lancetta, ci sono una lineetta che va da 1,30 perché sai a quanto il segnale, quanto è QRM, eccetera. Quella lineetta quando va sulla portante sparisce. Oh. Allora sarà così, sarà, no? Sarà così che deve sparire. Il vecchio 6009 non lo fa, però fa solo il 6009 nuovo, capito? E questo qua lo fa, tutti e due lo fanno, ma il vecchio non lo fa, capito? Sarà andato così, veramente, sarà andato così. Se quello là è così, è nuovo, è questo. I numeri spariscono. L'importante è che funziona bene, non mi interessa tanto in ricezione, so quanto arriva, quanto non arriva. La lineetta non si spegne, si spegne solo quando parlo, capito? Certo, quindi no, non ti segna quando è in ricezione. È fatto, ti aspetta, se faccio vedere, sto là. Un attimino che ci faccio la cosa, te lo mando. Cosa fa? Sì, ahia. Ecco, il telefono scarico, là. Se lo manderò domani eventualmente, adesso lo metto a caricare. Non fa nulla Gianmarino. Non mi fa caricare, sto. Cazzo, quello è per quanto lungo il telefono io. Devo fare la foto e non fa, e nella scarica. Non fa nulla Gianmarino, se non fa nulla. Lo puoi vedere l'altro giorno. Ma poi già l'hai visto, già te l'avevo mandato la fotografia. Guarda, sotto i quadretti c'è una linea orizzontale da 1 a 30. Quella linea che sparisce quando la passo la portata. Oh, va bene, già non fa nulla. L'importante è che funzioni. Perciò se mi sta ascoltando e mi dice che sta andando bene, se non succede niente, ma... cazzo, vedo un po' su, perché me lo fa anche il 6009, me lo fa quel lavoro, il nuovo che ho preso, il vecchio no, ma il nuovo lo fa, per cui speriamo non si ceda niente, va. Comunque già sta funzionando bene, sono tranquillo. Infatti, non si sente che sta funzionando bene, la voglia. È così, detto, per carità, si sta parecchio, è una roba digitale, strana, va. No, sono i nuovi apparecchi che stanno facendo, li sono fatti sempre più complicati. E allora, ragazzi, più complicato a vivo, questi non si trovavano più, mentre invece vedi a gobbe ce li aveva, invece ce li aveva più. Io anche quando ho cercato non li trovavo. Per cui in America sì, già c'erano, ma costavano troppo in America, capito? Mentre invece gira, l'ho trovato a Miragobbe, mi sa. Io il 5005 l'avevo raccolto a Tino Musco, l'avevo giusto. Era nuovo, stesso, avevo un mezzetto, l'avevo dato a Tino, non ne facevo niente. Però mi è piaciuto sempre, mi sono preso per quello, capito? Sì, sì. Oh, ma è cosa? Ma la globo? Ce li ha in arrivo, non sono disponibili per il momento, a settembre ha messo, a settembre sono disponibili. Quella pubblicità però c'è sempre, fatto la pubblicità di questi apparecchi, c'è sempre per quello che sono ieri, già c'è il compito, stavo guardando e c'era ancora, però già lo diceva che non era disponibile, capito? Per l'apparecchio per adesso non era disponibile. Allora eventualmente li arriveranno a settembre. Ah, è andato bene, dai, poi è completo. Poi c'è anche il Vox, capito? Ma io, come si chiama? La PPA. Cazzo, ho visto, l'ho provato, ho visto che funziona con lo sopparlante stesso. È esterno. Sì, no, c'hanno tutto, c'hanno. C'hanno tutto quanto. E cosa? Quello quando vai in SST, i clarif, invece a quelli con la manopola girava poco a poco, invece questi si ha numeri, fino a 100, capito? I numeri a 100 ti regoli con quei numeri, capito? Quando sei in distorsione lo devi regolare. No, quando sei in SST, invece avere come si chiama lo riclarife, questo c'ha i numeri e quei numeri lo regoli, capito? Sì, infatti purtroppo sono i nuovi apparecchi digitali, allora digitale, ma già erano migliori prima quelli là, va. Cazzo, i dialoghi perfetti, cazzo. Però meno, il primo che avevo preso, cazzo, adesso che c'era bruciato i display, per carità, e già me l'hanno mandato nuovo, cazzo. Pensavo 2 anni di garanzia. E va bene. Rispedito, te ne avevo mandato un altro. E pensato, ci prendono loro. E la vita glieli cambia a loro, capito? E infatti, glieli cambiassi. Ha detto, devi prendere e glieli mettere attorno il pezzo nuovo. E poi, però la prima era... dunque... era Intec 5005, invece questo è Antonini 5005. Infatti è così, 5005. Hanno cambiato la marca, capito? Hanno cambiato la marca, per essere CRT 5005, oppure invece hanno messo direttamente Antonini, la marca Antonini 5005. Purtroppo è capace uscito proprio. Non mi sembra che non ce l'abbia rilassi, forse. Sono come Media Globo che ha questo apparecchio. Ce l'ha? Ecco che c'era solo Media Globo con questi apparecchi, il 5005. Ma c'è anche un'altra ditta che non mi ricordo come si chiama. Ma costano lo stesso prezzo, costano. Ho visto che... forse non l'ho girato a vedere a cercare altri punti. L'ho trovato qua a Bella Globo e mi sono fermato lì. Oh, già c'è qualche altra ditta che ce l'ha, quanto lo stesso prezzo? Stesso prezzo, poi ce ne sono altre ditte che costano di più. Costano. Ti vengono su 189. Ti vengono. Oh, è quasi la stessa cosa. Questo quanto era? 165, anzi 168, quasi anche tutto, e 180 attorno, 180. €90 di trasporto, c'hanno in più, quindi siamo. E infatti allora, speriamo, mi vanno bene là. Infatti, ho già 2 volte che lo accendo, lo accendo quando l'ho comprato, dopo 2 giorni ce l'ho rimesso dentro la scatola e ho messo un altro. Adesso mi sono deciso, e penso lo ritorno a mettere, e già l'ho messo, e già l'ho messo. Sì. Vabbè. Hanno dato te ne buone uno, non è proprio. Non c'è che si farà zicchettere. Ah, ma cosa cosa ci vorrei? Infatti, bisogna ponere sempre in funzione. Un giorno accendi uno, l'indomani accendi un altro. E via dicendo. Attenzione, Gio Maria, mi senti? No, siamo sordi. Ciao, avanti, chi sei? Ma dove sto chiamando? Forse non sto uscendo. Ah, brutto, sì, buonasera. Ah, che stai uscendo, a voglia. No, non lo senti, ah, Bruno? Sì, la mamma, altro, le dici che mezz'ora che ci ha messo. Ah, siamo diventati sordi. Oh, non stavo uscendo, non lo so. Ho cercato di chiamare, no? Non lo so, questo baracchino adesso lo prendo e lo butto nella musetta, se lo trovo spazio. Ecco un altro che vuole buttare, mi Giovanni, ho sentito. Butta! Sì, perché non so mezz'ora, sto cercando di creare per aiutarvi, non so dove arrivare. Ma non te ne accorgi, lo smetto, se stai uscendo o non stai uscendo. E forse per quello. Io penso che non durassi, no, forse non riuscivo a andare se non faccio l'attimo. Perché ho saputo di questo cavolo di microfono. Se li metti per sempre cambiare il baracchino, c'era questo spazio. Era, hai di me di buttato il cofano, adesso l'ho visto. Ma è qui che è stato il spazio. Ma comunque stai uscendo, va. Stai tranquillo, così è sto. Sì, la massa che scende, ma non sono la dice che non era scendo. Sono mezz'ora. Sono sopra l'antenna. Ho visto il spazio. Ma chi non manca, è stato bene. Adesso ancora non potete fare per fare il consiglio. Non c'è bianchino, ma come sentite? Ah, senti in macchina, no? Sì, sono in macchina, sono in bianchino. Vabbè, sei 7 il segnale. 7, 8, per cui quanto ti arriva il segnale sto? Ma ti arriva da te, arriva da me. Vedi, non è solo. C'è la tua volta, la zona, il segnale molto sicuro. Non ho capito se è questo cavolo di baracchino, poi c'è questo cavolo di antenna, adesso lo metto via e metto nuovamente l'altro, questo baracchino è buonissimo. Ma la radio è buona, il segnale fregatelo, è la radio che interessa, capito Bruno? Sì, lo so, ma sono stato facendo mezz'ora, diciamo, sono molto uscendo, perché poi avevo sempre dubbio su questa antenna, ma non sto andando, questo piede. Insieme, un po' disgraziato, mi vede plastica, mi vede la luna. Ogni tanto il caparecchio che ha fatto degli scherzi strani. Si chiedono alle persone, si chiedono a questi attrezzi, io blu. Senta, ma qualche mese, tutta la volta che decido di entrare, c'è questo, c'è fare qualcuno, c'è qualcosa da fare. Allora, non ti devo fare un cazzoletto di vitrino. È molto bella. E se ne tocca? No, funziona. È quella PLL, no? Oh, non è qualsiasi, è PLL. Sì, è PLL, però è un po' di zodiac, dice che l'interno è 5.024, ma va bene, anche io ne ho uno vecchio di zodiac, era 34 canale e l'abbiamo fatto a 40 canale, però funzionano sempre. Non si guardano mai questi apparecchi. Questo è 40 canali, questo, non me l'hanno dato. Ma io ho l'altro, come l'altro che ho in casa. Quello è nuovo, è esatto. Però mi dicevano sempre che la radio è un po' bassa. C'è quello che faccio, non ho messo questo qui. Ma sono anche quello normale, no? Magari mettendo il microfono a queste cazzo la radio diventa più forte, magari e andrebbe più bene. Sì, non avevo preso il microfono a queste cazzo. Non avevano veduto, me l'hanno attaccato, non l'avevo mai funzionato. E poi niente, non è mai stato neanche la tappa, infatti. Va bene, ok, tu, sto bene. Certo, sono bene, ma niente, l'avete fatto al mare, sì, sta a posto. E oggi sei attestato in mare, no? Io ero... sono tornato stasera, stasera siamo andati al nono festival, dopo la mania di sorso, dopo le dendicci, che è questo discesa a mare, dopo il bellino, da mare poi c'è un ristorantino, e questo di due a mezzo a tre, se ci siamo andati lì, la mania, e poi ce ne siamo attati. E avete fatto bene, grazie. Io lo mare già lo vedo qua, la televisione ogni tanto, capito? Non so come faccio più, facciamo da molti anni, da come mi hanno spacciato le cabine. Lo so, se mi ripeto io vado sempre un po' di sole, va bene, io vado la mattina a tre, lo stesso, ma non c'è, poi 9:30, non ho potuto aprire la paraonda, fidemi no. Fai bene a pigliarci gli intrusori. Ma io se gli non ha c'è per morire. Va bene che poi tutto l'inverno siamo lì ad ammuffire, bisogna scaldarsi le ossa quando c'è. C'è stato poi non è stato molto bene come la mano. E anche altri sono stato qualche problemino. Va bene, noi là. Diciamo che... questo marzo si va avanti, piano piano, questo si deve uscire, non troppo, questi giorni non ci sono anche, non credo bene, ma si fa la passeggiata, ha capito? Sì, infatti è così, si è fatto una passeggiata, non manco. E cosa vuoi fare? Che ne abbiamo voglia, perché poi lì, e adesso ci sono già fuggenti, e non è più grande che andrà la tua. Mi prende già male. Ehi, tu vai a correre anche lì, no? Fai allenamento sulle spiagge, no? No, allenamento non ne posso più fare, io ho problemi con la schiena, ho anche le colonne vertebrali, per cui diciamo che posso camminare. Una volta facevo tanta strada, adesso un po' di meno, devo operarmi anche il menisco, invece ho il ginocchio, non so male. Dunque sono potuto molto male. Però a camminata non deve mai mancare, adesso 3-4 volte al giorno, fatto da dove abito io, da Giovanni Pasqua, quindi faccio a piedi, vado da te, e non mangiare un pizzo, facciamo una passeggiata. Almeno quello fai tu, io non ne ho voi, sono diventato patrone anche a uscire, ma mi piace più a uscire, manca a camminare, ho messo l'acqua subito. Perché prima di che uscivo io, cazzo, il giraffo. Adesso questi anni queste robe, non mi fa uscire. Infatti, tutti gli amici, dicevo ai mezzi che ero il giraffo. Non tanto più caro che si vogliono fare. Ma la tua non lo vedi. Ma che campagna quasi non può fare da ma. Non fare a campagna. E ti voglio fare campagna da sempre di là. E dunque, io gli ho detto la faccio di campagna. Sono guardando di lì. Sì, non le buttare, capito? Sarebbe da platamo. Sarà arrivato, ci fanno tra dito. Sono andato a mettere la parcheggio in capo al trono, vedo fresco la sera, e ti metto con buca a fa, che c'è finita la campagna. E dopo tornato da casa che io sono sciancato. E tu qualcosa magari la puoi fare io, da quando ho il silenzio dell'albero, lo posso fare in tempo, qualche cosa da leggere già da fare. Viene sempre un amico a aiutarmi, lo pago e mi fa tutto quello che c'è da fare, capito? Io non posso fare più niente. Ma anche io sono questo modo, in questa schiena, in queste condizioni, posso fare fesseria, ma fa cosa più grande ormai, non faccio più niente. Finisco, adesso sto menisco, mi sento il menisco, sempre diciamo che per fare il menisco, così posso andare a camminare come un po', se non ho messo, sto camminando a poco, anche se il ginocchio, purtroppo gli anni passano e siamo avuti. siete lì sotto. Sì, a Elia. A vincere. Via. Purtroppo è così. E così ci dovremmo accontentare. Sì, anche con gli altri amici, un po' i giovani, capisci, ci vuole andare, vuole andare. Sono io appresso, mi divulgo, ma da voi non arrivai. Poi mi sono arrivato a andare. Mi divulgo, ragazzi, ma io di solito sono andato a mare. Arrivo dalla macchina e devo avere un mare vicino. È proprio vicino, lì. Anche in una piazza cambiata di spiaggia, quanto giro che voglio. Oggi mi stanno bruciando dietro lungo, il viotto lungo, parata, da cui camminare in spiaggia, con tutta la roba addosso, e si c'è l'ombrellone, vai a sedia, c'è il tutto, non fa più aiuto, non fa più, non vuole mai, o a ciancampo. Dove sei entrato? Dove c'è la pinetta? Sei entrato e sei andato in fondo. No, che cosa c'è? Una specie di ingresso al mare, numero 9 dicono. Ingresso al mare, specie del numero 9. E si chiama Riguggoni, questa taglia di Guggoni. E c'è una specie di ristorantino di cose, i chioschi a mare, ci sono. Solo che per arrivare al mare c'è una discesa un bel lunga. Quando sei arrivato, sarà roba addosso, piano piano, si è sceso. Ma da voi a farmi, di Varese mi faccio rimanere. Ma la conosco, sì. Sono andato un sacco di volte io lì. Poi la gioventù di Intimi, tra cavallo, poi non penso che è andato più. E c'è una discesa difficile per andare a mare. Poi la sabbia è nieta ferrosa lì. Sabbia ferrosa, nieta come se tu cai buono. E non abbiamo mai visto vita mia una cosa del genere. Un po' sì, ma questa sabbia nera, come carbone, proprio è ferrosa, è una cosa assurda, Se però l'acqua è pulita. Ma da quello di sola vita. Ma non c'era mai andato lì. Io devo andare in Barentini, perché è un posto così, si fa poca gente, no? È tranquillo, questa piaggetta tranquilla, no? Non c'è gente che va avanti e dietro. Ma è una cosa troppo faticosa, no? Va bene, E altro che va via lo carrellino, andiamo poco, sedia, dietro, preso, lo zaino, e le cose. Mamma mia, che li sono dove. Non me ne chiedete più a me. Io vado via, secondo pesce, ho la rotonda. Perché io voglio rimanere vicino? Un po'. E una volta gli arriva giù, che cosa vanno? Non fa più. Sì, infatti è così. Forse vicino, con il mare vicino, senza fare 6 chilometri. No, ma poi io vado vicino, io sono. Ma grazie a mano, non andavo più. Mi ha ricordato il tema di E poi, quando tu mi sei arrivato a Barahona, non lo sapevo qui. Mi ha fatto una bagnetta e mi ha fatto la Malmagna io, nel Napoli, e poi faccio un'ora, va bene per la conclusione Ballussi, e la voglio per un bel ruia. Fatto così, non è fatto così, no, andate lontano e fa un po' di chilometri a piedi, no, meglio vicino. Stamari, ripresi. E dov'è questo, quello? Ma come lontano, che ci verrà già pianeta, e poi non dire il trucco. Allora, avevo già detto, andando, la zona si chiama Canemaru, Bukiri, dopo le 20, c'è già mare numero 9, c'è una discesa, ma una cosa farà già mi fanno amare. C'è questa baia, si chiama Baia dei Guggoni, che c'è una specie di chioschi di ristorante dove si mangia. Le Guggoni si chiama Baia dei Guggoni. Poi non me l'ha messo, poi da qui si è passato, ma non me l'ha messo. Sì, che la giravo la sanguigna prima, non me l'ha messo il tuo vicino lunga. Proprio via, proprio non me l'ha messo. So, illumina tu che lo sai dov'è. Dopo coso, dopo la Maria del Sorso, fai le varie 3 chilometri, e faccio per questa specie di spiaggia. Ah, così, io pensavo che era più lontano. Cosa fai? Ma se poi andare a mangiare giusto. a campare, è più vicino, e fate un po' un cammino, e chi ha ragione, ho cercato questa cosa, e poi capisco i dolori, loro sono male mie, oh via, e io arrivo qui, pagato il gioco caggio sull'albero, e tutto il gioco e non ho fatto mai niente. Sì, ma anche io sono messo male, non posso fare niente, perché ho un giorno di vertebrale, per cui ho una serie di fratture che non sono contagiate, e non possono essere operate perché sono osteoporosi, capito? Per cui non era forse prima che abbiamo lì, ma mi piace andare, andano benissimo. Perché? Ma di certo se vuoi amare, bel fresco della mattina, un bel bagnetto, ma proprio mi spiace a 20 minuti, vedi? E poi un paio d'ore, con la sua mano, fino a un po' di storia, la dominava. E non mi piace più. Non ce la faccio a stare cercando l'armadio, non vengo da di là. Tutti i giorni scendo a portavo. E il tempo viene e passa, Ah, facciamo piano cosa vuoi fare, per carità. Io rispetto solo da un te che lo scendo a mare, ma molti anni, da quando a mano sta tanto, hai capito? Da mangiare io sto sceso lì una volta, un paio di volte cosa via, alla rotonda, un paio di anni fa. Adesso, dove vai? Non ne ho voglia. Vabbè, la voglia è una... anche a me, forse sono cose fatte prima, e io proprio quando non sapevo cosa fare mi pigliavo due canne da pesca, intanto bacia a mare, stavano state lì, buttate, piano, anche adesso questi ultimi anni, vedi? E mi piace non riesco a fare lontano, non ne ho voglia più di camminare, si fa. E oggi mi hanno convinto, ho fatto una nottata, sono andato un po' a largo e ti dico che ho resistito un po' perché non avevo più le forze di prima, capito? Le ossa ormai, tutte queste fratture che ho, che non si sono potute trovare, allora ho fatto, però se vedevo che la spiaggia, ma è come se mi restasse manca un braccio. Beh, quando uno è appassionato, io da giovane, cacca, a Romani, tiravo un servizio, cacca. Ah, ma adesso non ci vado, come va? Ma è passata pure la gana, per cui poi ho fatto, posso fare niente, con la testa, in mezzo alla sabbia a bruciarmi di piedi, no, saranno. Capri un postino che non vai, io che sono più tranquillo. E da forse dal tuo cammino, piano piano mi posso la luce, sono tranquillo, bro. Vabbè, soltanto per l'idea di prendere un po' di fresco la mattina presto, quindi se tanti lì e stai bene. Poi la luce è molto più difficile. Sono stato pensando le gare le offende, no? Non ha fatto disastro. Sì, a stampa, ma cosa pensa di fai tu? Signori, io che devo lasciare che mi devo obbligare i battiti. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Gianmaria, stammi bene. E ciao Bruno, alle prossime. Ci risentiamo. Io la ricordo c'era già dietro, adesso siamo tutti a cambiare la chiesa, non si devo buttare più cazzando, mezz'ora. Ciao, ciao, sentiamo la buon presumento, a ti sentire se Dio vuole domani. E così è brutto, per carità. E gli anni passano, per cui avremo tanto tempo, sei molto più giovane di me, che a te. E io mi dico, so che non tanta gente, mi vuoi immaginare? Maria, non è che... ma il problema mio, io come carattere umore, è il problema che mi ha fregato, non è un problema di questo pure di io, e dunque non posso essere operato perché si crono i vertebrali, e purtroppo questa volta mi fa anche due passi. subito adesso per giunta, anche come camminavo il periodo scorso, sotto menisco, cioè si è rotto il menisco, si è rotto la ginocchia. Anche come cosa di uscire con la felicità, voglio andare, ma se c'è più di malumore, anche tutti i vaccini, allora niente, mi state buttando tutti in questo posto, grazie a un ghiotto, non sono stato, ma arrivi a mano. E ho detto, oh, ci vengo, lasciate che spalda a me, e non ne ho voglia, poi sono stato lui, e già il vicino, non stanno infatti, stanno macchiando. Per cui domani va di sì, domani, no, mezzo domani viene in bara, plattavo a proprio vicino a Romare, parcheggio la macchina a 3 metri da Romare. E dopo la ciuca a mano e mi bruciò dolce, poi non faccio altro. Poi c'è il bar vicino, mi dice un caffè, e per qualche amico, la chiacchieratina con gli amici lì. E andiamo in nato, però non ho più voglia di fare il trapassato di una voce e purtroppo sai, in famiglia c'è qualcuno che ha qualche anno meno di te e andiamo. Poi che ne ha voglia, una giornata che non è gratuita, Giovanni, che non è così ragazzino, ha 78 anni, ha 168 anni che ho fatto qua. Ma lui lavora in campagna, non è più abituato. Ma si è carregato, come di un muro. Ma aveva anche un carrello pieno di stagni, ombrelloni, sedia, sdraio. Ma cosa aveva le sacche, aveva il bidone dell'acqua da 5 litri. Ma proprio, ne ha fatto un incazzato, gli pariva un ragazzino di 18 anni. Però lui abita in campagna, non è più qua, sta sempre facendo, non si è mai fermato. Per cui è abituato a lavorare, che c'è a 78 anni. Sembrava oggi un ragazzino di 20 anni, dove non ce la faceva salire a piedi di Pugliottolo, e gli ci vede a carico come un muro. Però capito, non si è mai tornato, è abituato e ce la fa. Matteo. Magari anch'io se non avrei avuto quell'incidente, io parecchi anni fa le sono caduto all'albero a testa in terra e per cui sono stato tanti mesi, mi ha messo male, poi non potevo fare più niente e non posso fare più niente. Io grazie a Dio, quando lavoravo da gomme ultimamente, e uscivo da la forma, andavo in campagna, lavoravo, stavo sempre lavorando, la domenica lavoravo 3 giorni, allora ho avuto un incidente, mi ha bloccato e cosa fai? Non puoi fare più niente, allora ma che cos'è, la piano piano io la faccio ugualmente, però no, ogni tanto mi chiedo a chiedere pure la fanno, mi puoi immaginare? Io piano. Diciamo che mi viene un cazzo pazzesco perché dovresti fare, hai tante cose accanto a stati, abbandonati, insomma. Adesso c'è un casino in garage, stavo sistemando, e basta non sta lasciare, rischia anche di giocare da cosa. Per cui diciamo, stasera mi ha sceso tutta la roba, stavo cercando di rimuovere le cose, perché sto già sistemando le cose che non uso più ormai, il periodo estivo ormai sta passando, ho stato qua, sto già mettendo via, mi tengo soltanto con le 4 fesserie che tengo fisse nel cofano della macchina, e le cose in macchina, ma almeno quello, no, rimanere a casa non so, si può sempre. E si può salire piano piano, non posso più fare solo, facevo una volta che camminavo, mi stavo tutti i giorni, mi faccio tutti i pezzi, io fino a 2 anni fa, e facevo tutti i pezzi, partivo da terzo pezzi, andavo secondo, primo, arrivavo alla rotonda e arrivavo poi alla parte della torretta, poi tornavo a salire e qualche volta tornavo a scendere, un paio di chilometri non li facevo, no, adesso posso fare lì. Piano piano, due passi, due bosi, sono da pacchini, due bosi, sono da pacchini, non fa più, non fa più. E vabbè, pazienza, è andata così. E purtroppo, ma, si fa infatti piano, grazie. Non è che possiamo guarire completamente come prima, no? Ora peggio possiamo diventare, ma a migliorare un po' di... purtroppo è così. Ma sappiamo che la avanti blu. Tutto sì, ora va bene, buona. Anche io chiuso. Grazie a te, entrato a salutarti almeno. Così tanto fa piacere, perché... Ok, Bruno, riprendi tu, io chiudo, ciao. Io chiudo, ma mi ha fatto piacere, dai, Ciao, ciao.